Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:08 minuti, nuovo appuntamento con Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, i temi di approfondimento di oggi: parleremo del deficit italiano nel primo trimestre del 2009 al 9,3%, un dato davvero impressionante, ai massimi da almeno 10 anni a questa parte. Cercheremo di capire se è solo un qualcosa che ha a che fare con calcoli matematici o c'è qualcosa di più. Ovviamente lo faremo con l'aiuto di un collega del Sole 24 Ore. E poi parleremo anche dell'assemblea dell'ANIA, dell'associazione che riunisce le imprese di assicurazione, per capire che cosa sta succedendo sul mercato dell'RC auto, della raccolta dei premi, che cosa succede sull'assicurazione vita. È un importante termometro questo, per capire come si sta muovendo anche in questo caso il paese. E poi parleremo anche purtroppo di disoccupazione. La disoccupazione sale sia in Europa che negli Stati Uniti, dati molto alti al 9,5%, il dato è lo stesso, anche se ci sono ovviamente delle grandi differenze tra l'Europa e l'America. Cercheremo di capire che cosa succede soprattutto sul versante degli Stati Uniti. Prima però di andare a vedere quali sono poi anche le notizie in breve, vediamo subito che cosa sta succedendo in Europa. Un avvio di seduta questa mattina già con il segno meno. Poi che cosa è successo? È successo che i listini europei si sono appesantiti dopo il dato americano sulla disoccupazione, quindi la flessione del meno 9,5% per il dato della disoccupazione. Parigi in questo momento c'è del 2,76%, Francoforte il 3,28%, Londra il 2,34%. Bisogna dire che l'Europa ha reagito male anche alle parole di Jean-Claude Trichet. Oggi si è riunita anche la Banca Centrale Europea, che ha deciso di lasciare i tassi invariati, non tanto a questa notizia quanto i mercati hanno reagito alle prospettive illustrate da Trichet, che allontanano la possibilità di un ulteriore taglio nel tempo, e anche le prospettive di ripresa si allontanano alla seconda metà del 2010. Per quanto riguarda Milano, la flessione varia tra l'1,8 e il 2%. I listini statunitensi, il Dow Jones cede l'1,85%, il Nasdaq il 2,21%, lo Standard & Poor's il 2% circa, quindi flessioni di una certa consistenza anche per i mercati americani. Adesso però veniamo a quelle che sono le notizie in breve. Partiamo come sempre dal petrolio. Anche oggi apertura in calo a $67,7 a New York, una flessione del 2,3%. Altra flessione, quella dell'Euribor a 3 mesi, il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali e che viene applicato ai mutui variabili, è sceso oggi dall'1,09 all'1,07, anche in questo caso un nuovo minimo storico. Andiamo negli Stati Uniti. Drastico calo delle compravendite degli appartamenti a New York nel secondo trimestre dell'anno. Nel quartiere di Manhattan si registra infatti una flessione del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con i prezzi in calo tra il 16% e il 47%, secondo un rapporto diffuso oggi da Prudential Douglas Elliman Real Estate, citato da Bloomberg. E poi lo dicevamo in apertura di programma, restiamo negli Stati Uniti per parlare del tasso di disoccupazione. È salito al 9,5% dal 9,4% di maggio, mantenendosi al livello più alto dal 1983. Ricordiamo che solo un anno fa il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era al 5% circa. In merito a questa notizia dobbiamo specificare che a giugno l'economia statunitense ha perso 467.000 posti di lavoro, più dei 365.000 previsti dagli analisti. Parliamo ancora di disoccupazione, ma ci spostiamo in Europa. In leggero aumento il tasso di disoccupazione nei paesi che compongono l'area dell'euro. In maggio si è attestato al 9,5% contro il 9,3% di aprile. Nel maggio del 2008, quindi esattamente l'anno precedente, era al 7,4%. E poi ancora, lo dicevamo, oggi si è riunita la Banca Centrale Europea, ha lasciato i tassi di interesse invariati, come ampiamente atteso dai mercati, i tassi all'1%, questo è quanto ha deciso il Consiglio Direttivo dell'Eurotower, che appunto ha mantenuto stabile il tasso di riferimento principale. Nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio Direttivo, Jean-Claude Trichet, il presidente, ha detto che l'attuale livello dei tassi di interesse è quello appropriato. E poi ancora, l'attività economica quest'anno rimarrà debole e la ripresa è attesa per la metà del 2010, ha aggiunto Trichet, il quale poi ha parlato anche dell'inflazione. L'inflazione resterà temporaneamente in terreno negativo nei prossimi mesi. L'obiettivo resta tornare vicino al 2% nel medio termine. Ma sentiamo un estratto della conferenza stampa. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato considerando le informazioni disponibili. Dati recenti indicano che l'attività economica quest'anno rimarrà debole, ma dovrebbe calare in modo meno pronunciato rispetto al primo trimestre del 2009. Questa situazione riflette alcuni effetti negativi, tra cui un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro, che si manifesteranno nei prossimi mesi. Guardando più avanti all'anno prossimo, dopo una fase di stabilizzazione, ci aspettiamo una ripresa graduale per metà del 2010. I significativi piani di stimolo adottati in tutte le principali economie dovrebbero sostenere una crescita globale anche nella zona dell'euro. Per quanto riguarda il fronte dei prezzi, il calo dell'inflazione in territorio negativo a giugno è stato in linea con le attese. Ci attendiamo che l'inflazione resti in territorio negativo nei prossimi mesi prima di tornare su livelli positivi. Ci spostiamo in Irlanda. Moody's ha tagliato di un intero gradino il suo giudizio sulla solvibilità dei titoli di Stato emessi dall'Irlanda, portando il rating a AA1 dal precedente AAA, lo scrive la Reuters citando una nota dell'agenzia stessa di rating. Dall'Irlanda andiamo in Germania. Il rapporto deficit-PIL tedesco dovrebbe toccare una punta del 6% nel 2010. Questo è quanto scrive oggi il quotidiano Handelsblatt, rivelando che il governo federale, le regioni e i comuni saranno costretti a indebitarsi per circa 507 miliardi di euro entro il 2013. E poi ne parleremo più diffusamente nel corso della puntata. Questa mattina assemblea dell'ANI, la raccolta premi complessiva del settore assicurativo italiano salirà nel 2009 del 5,4% rispetto al dato del 2008, che si è chiuso con un calo della raccolta del 7,2%, superiore al calo registrato l'anno precedente. E poi ancora, la raccolta premi dell'RC Auto è destinata a chiudere in calo anche il 2009, dopo il meno 3,3% del 2008 e il meno 1% del 2007. Questo secondo quanto emerge dalla relazione annuale dell'ANIA. Il comparto RC Auto registrerà una flessione dei premi nell'ordine dell'1-2% entro la fine dell'anno. L'ANIA manifesta apprezzamento per la reintroduzione della pluriannualità dei contratti assicurativi avvenuta ieri con il DDL Sviluppo e chiede di mettere mano alle disposizioni in materia di clausole bonus-malus nell'RC Auto e al divieto di esclusiva nei rapporti di agenzia. Questi sono alcuni dei temi toccati dal presidente dell'Associazione delle Assicurazioni, Fabio Cerchiai, proprio nel corso dell'assemblea. L'ISVAP, che è l'organo che controlla le assicurazioni, propone una tregua nella richiesta di correttivi al quadro di riferimento normativo delle assicurazioni. Questo è quanto ha detto il presidente dell'Istituto di Vigilanza, Giannini, dopo la richiesta del presidente dell'ANIA di riprendere in considerazione una modifica delle regole sugli agenti plurimandatari. E ovviamente anche i consumatori hanno detto la propria sull'RC auto, che è un tema molto sensibile per tutti noi. Le liberalizzazioni vere o fasulle introdotte negli ultimi anni nel settore RC auto hanno contribuito a rendere più efficace e trasparente il mercato assicurativo italiano. L'ANIA non può pensare di smantellarle, quanto dichiara l'Unione Nazionale dei Consumatori, esprimendo il proprio dissenso riguardo alla relazione annuale del presidente dell'ANIA Cerchiai. L'ultima delle nostre notizie è relativa alle Ferrovie dello Stato. Il processo di riequilibrio finanziario non ha comportato alcun sacrificio sostanziale sui sistemi di sicurezza. Questo è quanto ha detto il presidente dell'FS Innocenzo Cipolletta in un'audizione al Senato. Questo ha aggiunto anche per cultura dell'intero sistema ferroviario. Adesso invece andiamo ad approfondire il primo dei nostri temi relativo ai conti pubblici. Allora, la notizia è ovviamente di oggi, è una notizia inquietante anche perché la cifra di per sé spaventa. Il primo trimestre il deficit al 9,3%, un dato Istat. Io saluto subito il collega Dino Pesoli del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera Valeria. Eccomi. Allora, cominciamo dal vedere quali sono state appunto le comunicazioni di oggi dell'Istat. Il rapporto tra deficit e PIL nel primo trimestre si è attestato al 9,3%. L'Istat ricorda che nello stesso periodo dello scorso anno il rapporto tra deficit e PIL era stato al 5,7%. Questo numero, quindi il 9,3%, è il dato più negativo almeno dal 1999, anno in cui è cominciata la serie statistica dell'Istat, ovviamente in proposito. Nel primo trimestre 2009 le entrate totali sono diminuite rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, e poi ancora nello stesso trimestre di riferimento, quindi il primo, le uscite totali sono aumentate in termini tendenziali, e poi nel primo trimestre 2009 il saldo primario, ovvero l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche al netto degli interessi passivi, è risultato negativo per oltre 16.000 milioni di euro, era poco più di 3.000 milioni nel corrispondente trimestre dello scorso anno. Per riepilogare tutti questi dati, che sono molti numeri, e per capirci anche qualcosa di più, la nostra scheda. La crisi si fa sentire sui conti dello Stato, con un deficit che nei primi mesi del 2009 è volato al 9,3% del PIL, toccando il livello più alto da almeno un decennio. Dietro il peggioramento dei conti ci sono innanzitutto il calo delle entrate dovuto alla difficile congiuntura economica, la riduzione del PIL che inevitabilmente comporta un peggioramento del rapporto con il deficit, ma anche un aumento della spesa rispetto all'anno prima. In particolare, le entrate sono scese rispetto ai primi tre mesi del 2008 di quasi il 3%, calando da 150 a 146 miliardi di euro. Viceversa, nel primo trimestre dell'anno le uscite sono salite del 4,6%, aumentando da 172 a 180 miliardi di euro. La salita della spesa è dovuta alla crescita del monte stipendi per i dipendenti pubblici, ma anche all'incremento di consumi e prestazioni sociali, aumenti che sono stati compensati solo in parte dalla diminuzione degli interessi pagati sul debito. Per rendersene conto è sufficiente guardare il saldo primario, ovvero la differenza tra entrate e uscite dello Stato, tolti gli interessi pagati sul debito, un saldo che è risultato negativo per 16,8 miliardi di euro, contro il rosso di 3 miliardi di inizio 2008. Allora, abbiamo sentito tutti i numeri relativi a queste novità, e dobbiamo anche aggiungere che un dato di ieri, che il fabbisogno a giugno va male, rosso a 6 mesi, a 49,5 miliardi, questo era un dato uscito ieri pomeriggio. Dino, io ti chiedo subito questo perché poi credo che sia importante capirlo immediatamente. Qui si parla di un rapporto che non dico raddoppiato, ma quasi rispetto al primo trimestre dello scorso anno. È solo una questione matematica, aritmetica, o c'è qualcosa di più? Beh, diciamo che l'effetto prevalente e atteso della caduta del PIL, perché noi quest'anno nelle ultime previsioni avremo un prodotto interno lordo, vale a dire la ricchezza che produce il paese, che sarà negativo per oltre il 5%. L'anno scorso non era così, certo. Quindi rispetto allo scorso anno sicuramente c'è l'effetto della minore crescita, quindi un paese che avrà una contrazione della propria ricchezza nazionale in un anno di tale entità non può che avere un passivo dei conti pubblici che sono strettamente connessi all'andamento del PIL. Però occorre dire una cosa, questo dato riguarda i primi 3 mesi, certamente non sarà il dato definitivo, direi per fortuna, perché se fosse esatto. Così sarebbe tragico. Secondo le ultime previsioni, il governo dovrebbe rendere noto il documento di programmazione economico-finanziaria nelle ultime ore, ma la previsione, la stima più attendibile che si fa per quanto riguarda il deficit dovrebbe essere nei dintorni del 5%, 5,5%, sì. Sicuramente non è una grande cifra, è lontanissima dal tetto massimo del 3%. Che è previsto dagli accordi europei, però vorrei dire, se noi guardiamo la situazione in tutta Europa vediamo che riguarda tutti i paesi, cioè ci sono paesi che addirittura avranno un indebitamento quest'anno che supererà il 10%. Ecco, Dino, però io a questo proposito volevo chiederti questo. È vero, abbiamo sentito anche nelle notizie in breve all'inizio del programma, la Germania, la stampa stima un deficit, un rapporto deficit-PIL al 6%, problemi anche in Spagna, in Francia ovviamente, però questi sono tutti paesi che hanno stanziato delle ingenti risorse per sostenere il proprio paese, la propria economia in un momento di crisi come questa, somme che non sono state stanziate in Italia. Sì, questo riguarda però essenzialmente un altro indicatore che oggi nelle previsioni dell'Istat non compare, che è quello del debito pubblico, sì. Che differenzia nettamente la situazione italiana da quella tedesca. Una delle cause, sicuramente la prevalente, che ha determinato in Italia uno stanziamento complessivo per far fronte alla crisi che non ha certamente possibilità di essere eguagliato a quello degli altri paesi, deriva dal fatto che noi abbiamo un debito, vale a dire uno stock di passivi accumulati nel corso dei decenni che di gran lunga è superiore a quello di Germania e Francia. Tanto per essere chiari, noi per effetto di questa crisi avremo un debito che di nuovo salirà pericolosamente oltre il 115% del PIL. La Germania parte da una situazione che è pari al 65-66%. Dunque, se poi la Germania arriverà a un debito che arriverà al 75%, non sarà considerato un dramma. Per noi lo sarebbe, perché noi oltrepasseremmo il 120% con problemi enormi dal punto di vista del finanziamento del debito sul mercato. Quindi questo è un po' il problema. Fatto sta che però obiettivamente il quadro che esce dall'Istat è un quadro molto allarmante, è un quadro negativo, credo addirittura più negativo di quanto fosse lecito attendersi, perché probabilmente un deficit di questa entità non era prevedibile. E io credo che dovremo attendere un po' nelle prossime settimane per capire esattamente quanto incasserà lo Stato dalla partita degli acconti. Ad esempio c'è stato uno slittamento, sì, nei versamenti per gli studi di settore al mese di luglio, certo. È passato al 6 luglio, che ha determinato ad esempio il profondo rosso del fabbisogno di giugno cui tu ti riferivi poc'anzi. Sì. Probabilmente questa posta sarà recuperata in luglio. In luglio. Ma non c'è da attendersi grandi. Senti, più che altro, Dino, anche perché tu dicevi giustamente il quadro che emerge dai dati forniti dall'Istat è molto preoccupante, anche perché forse una diminuzione delle entrate era più che prevedibile vista anche la situazione di crisi, scende il PIL, aumenta però anche la spesa. Dunque, io se potessi dire, il dato che più mi preoccupa da queste informazioni dell'Istat non è tanto il deficit, che pure è allarmante, che secondo me comunque, come dicevamo poc'anzi, sarà in diminuzione nella seconda parte dell'anno, ma è questa caduta di 13,8 miliardi del saldo primario, sì. Che per chi ci ascolta, anche per facilitare un po' la comprensione comprensione di questa che è una materia molto complicata. È molto complicata e sostanzialmente è questo, è quando si fa la, diciamo, la somma o la differenza aritmetica tra le entrate e le uscite dello Stato al netto della spesa per interessi, che è quella che noi paghiamo per sostenere il debito di cui abbiamo parlato fino adesso. Sì. E cioè l'indicatore prevalente per saggiare lo stato di salute dei conti di un paese. Allora, questo passivo è preoccupante perché vuol dire che al di là, diciamo, della spesa per interessi che noi comunque siamo costretti a sostenere, che ricordo è attorno ai 75 miliardi l'anno, quindi equivale a una percentuale altissima, siamo attorno al 5% del PIL. E la cosa preoccupante è che noi nella somma tra le entrate e le uscite abbiamo un saldo negativo di questo tipo, il certo. Che vuol dire che abbiamo speso troppo e abbiamo incassato poco. E questo è l'elemento che deve un attimo far riflettere e secondo me dovrebbe comunque indurre a vigilare con grande attenzione sull'andamento dei conti pubblici nella seconda metà dell'anno. Ecco Dino, l'ultima cosa che volevo chiederti è questa, anche perché vengo sollecitata da qualche SMS: non abbiamo beneficiato in nessun modo della discesa dei tassi e quindi anche di una minor spesa sugli interessi per il debito? No, ne abbiamo beneficiato perché sennò questa, diciamo, sì, sarebbe questo... stata una strage proprio, però voglio dire insomma la discesa è stata abbastanza importante, forse non l'abbiamo messa a frutto abbastanza. Il problema è questo: noi abbiamo fruito come tutti i paesi della discesa dei tassi. Tengo a precisare però che la discesa dei tassi c'è stata negli ultimi 6 mesi, 8 mesi, fino all'estate dello scorso anno. I tassi erano quasi tutti, diciamo, i tassi di riferimento in Europa erano, come ricordiamo, stati aumentati a più riprese. Poi c'è stata l'inversione di tendenza della Banca Centrale che ha cominciato a diminuire il costo del denaro, ora l'ha portato praticamente a livelli molto vicini all'1%, insomma quasi a zero. Sì. Il problema è che noi abbiamo una struttura del debito pubblico piuttosto concentrata sui titoli a medio e a lungo termine e avremo quest'anno scadenze importanti sul pagamento degli interessi. Quindi per la struttura del debito pubblico l'effetto di diminuzione dei tassi si ha non nell'immediato, ma come dire, si riverbera nel medio periodo. Sì, si trasla certo in avanti. Si trasla in avanti e quindi per questo non ne abbiamo beneficiato pienamente finora. Ci auguriamo di beneficiarne in futuro e ci auguriamo soprattutto che a luglio si possa recuperare una parte di ciò che non è stato recuperato per slittamenti di date a giugno. Grazie a Dino Pesoli in collegamento con noi da Roma per averci aiutato a fare chiarezza su questo argomento molto molto complesso. Sono le 17:33 minuti, ben ritrovati, 349-238-6666 per i vostri SMS. È arrivato il momento di andare a vedere che cosa è successo sui mercati. La giornata si chiude pesantemente in rosso per l'Europa, Parigi cede il 2,96%, Francoforte il 3,58%, Londra il 2,17%, a Milano il FTSE Italia All Share cede il 2,41%, il FTSE MIB il 2,65%. In flessione anche gli Stati Uniti, il Dow Jones meno 2,02%, il Nasdaq cede il 2,38%, lo Standard & Poor's il 2,21%. Noi torniamo però sui listini milanesi, lo facciamo in compagnia del collega di radio Corrado Poggi, che saluto, benvenuto Corrado. Grazie a voi. Allora Corrado, lo dicevamo anche in apertura del programma, oggi dobbiamo dire che dopo i dati americani sul mercato del lavoro è stata una discesa continua? Sì, perché si aspettava un miglioramento, anzi una prosecuzione del trend al miglioramento che c'era stato in maggio, quando il numero di posti per assi è stato intorno ai 340.000, in netta riduzione rispetto ad esempio a gennaio quando ne erano stati persi 700.000. Invece in giugno è tornato a crescere il numero dei licenziamenti e questo preoccupa perché chiaramente sembra diventare meno probabile nel breve periodo una ripresa certo, tra l'altro anche Jean-Claude Trichet oggi l'ha spostata in avanti di qualche mese, la metà del 2010 staremo a vedere. Allora, sul listino principale due i titoli che sono riusciti a guadagnare sul finale, Pirelli e l'Automatica. Sì, entrambi hanno in realtà registrato guadagni molto molto sì certo molto sottili, diciamo molto sottili, esatto. in generale si sta registrando un e anche con l'inizio del nuovo trimestre si sta registrando un nuovo posizionamento dei fondi su nuovi titoli, e chiaramente questi due rappresentano magari una scommessa più convincente in questo momento. Certo, diciamo che oggi le flessioni sono state, partono da quelle più contenute di Atlantia, meno 0,07%, e per cui forse in una giornata come questa è sicuramente un titolo che è andato meglio, molto meglio di altri, ha tenuto rispetto a tutto il resto del mercato. Esatto, ha spinto così relativamente questo titolo la notizia secondo cui nei primi sei mesi dell'anno il traffico su autostrada è calato del 2,9%, cioè meno di quanto calcolato nel primo trimestre. Nel primo trimestre si era parlato di una flessione del 3,5%, quindi i secondi tre mesi pare abbiano registrato un miglioramento. Se poi si calcola che il 2008 era stato un anno bisestile, il traffico in realtà sarebbe calato in maniera inferiore, cioè pari al 2,3%, e questo dato chiaramente ha generato un minimo di ottimismo sul titolo, anche perché Credit Suisse ha poi alzato il target sul titolo da 18 a 20 euro. Tutto sommato ha tenuto anche il titolo Fiat, una flessione di un punto percentuale. Sì, Fiat ha beneficiato del miglioramento dei dati relativi alle immatricolazioni sul mercato italiano, dove ha registrato un aumento delle vendite del 17,1% contro il 12,3% del mercato nel suo complesso. Quindi Fiat è andata meglio del mercato, e questo chiaramente è positivo. È andata bene anche in Brasile, dove è diventata il primo produttore straniero, superando Volkswagen e General Motors. Quindi si rafforza sia sul mercato italiano che anche su uno dei principali mercati di sbocco. Cominciamo invece a vedere quei titoli che hanno subito delle flessioni molto pesanti, partendo dal peggiore del listino, che è stato il Banco Popolare, giù del 5,32%. Sì, allora Banca Popolare ha pagato il fatto che ha comunicato ieri di non aver raggiunto quella quota del 90% relativamente all'OPA su Italise. Durante tutta la giornata quindi c'è stata anche un'incertezza su quale sarebbe stata la prossima mossa dell'istituto. E si è saputo poco fa che hanno stati riaperti i termini dell'OPA dal 9 al 15 luglio col medesimo prezzo di 1,5 euro d'azione. Bisogna anche dire poi che il titolo era aumentato di circa il 13% nel giro di una settimana, quindi c'è stata anche una presa di beneficio in generale. Risaliamo lentamente sul listino a 2A meno 2,81%. Sì, A2A è uno di quei titoli che ha perso, anche se poi in realtà c'era magari una notizia positiva, semplicemente appunto risentito del trend. La notizia positiva è che ha siglato un protocollo di intesa con il gruppo Renault-Nissan per lo sviluppo di una mobilità a zero emissioni, cioè la utility creerà nel 2010 una rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche su tutta la regione Lombardia, che diventa quindi una specie di laboratorio per lo sviluppo della mobilità con veicoli elettrici. E questo accordo appunto è importante, perché chiaramente prevede una serie di punti di integrazione. Però nonostante tutto la giornata, i dati hanno talmente depresso i listini che anche una notizia buona come questa non è riuscita a dare manforte ad A2A, che appunto ha chiuso con una flessione di quasi 3 punti percentuali. Giù anche Mediaset, anche se con una flessione minore, meno 1,78%. Sì, qui c'è stata una dichiarazione del vicepresidente di Mediaset, per Silvio Berlusconi, che ha indicato di aver riscontrato un lieve miglioramento. Anzi, lui testualmente ha detto che i dati del semestre sono in linea o in leggero miglioramento rispetto al primo trimestre, cioè questo porterebbe a pensare una flessione della raccolta pubblicitaria fra il 12 e il 13%. Il mercato forse sperava un po' meglio, sperava che dopo tre mesi orribili, cioè orribili per il mercato, non per Mediaset, riferimento, certo, alla raccolta pubblicitaria, ci fosse stato un miglioramento, e quindi sperava che Mediaset fosse il primo a poterne beneficiare. Esatto, invece sembra che si rimanga sui stessi livelli. Grazie a Corrado Poggi per essere stato con noi, per averci illustrato la giornata sui mercati. Come abbiamo già detto, una giornata da dimenticare, quella di oggi, sperando che l'ultima della settimana, quindi domani venerdì, sia migliore e possa riportare il sorriso sui listini. Noi adesso parliamo di ANAS, siamo in collegamento telefonico con il presidente Pietro Ciucci. Perché? Perché oggi è stato comunicato il bilancio dell'esercizio 2008, che si è chiuso con un utile di 3,5 milioni di euro. Questo non succedeva dalla sua trasformazione in società per azioni avvenuta a fine 2002, cioè questo è il primo bilancio in attivo dal 2002. Buonasera Presidente. Buonasera. Allora, ci vuole spiegare meglio lei questo importante risultato e come siete arrivati a questo risultato? Beh, un risultato importante perché ancora 3 anni fa, quando è stato nominato l'attuale consiglio, il bilancio chiudeva con una perdita di 500 milioni di euro, quindi siamo passati da meno 500 a più 3,5. Ovviamente abbiamo operato sia dal lato dei ricavi, aumentando l'ammontare dei ricavi, sia dal lato dei costi, riducendo, ottimizzando tutti i costi. Soltanto un esempio, le consulenze sono state ridotte da 20 milioni a 1 milione e sappiamo cosa vuol dire questo. Ovviamente un bilancio positivo è importante, ma il positivo non si esaurisce soltanto nell'utile, ma nel lavoro fatto in termini di riorganizzazione dell'impresa, di ANAS, in termini di qualità dei lavori, di qualità della progettazione, di nuove procedure e di una maggiore efficienza nella realizzazione delle opere. Presidente, quali sono le prossime scadenze, i progetti anche per cercare di mantenere questo bilancio in attivo, anzi magari per migliorarlo anche? Questo, l'equilibrio di ANAS è un equilibrio che deve essere consolidato. Noi ovviamente siamo strettamente legati ai problemi del nostro azionista, che è lo Stato, ai problemi di bilancio, quindi a quanto poi lo Stato può destinare alle attività, certo, di realizzazione. E lo abbiamo visto in apertura di programma, è un momento molto difficile, molto complicato, quindi. È un momento complicato, le opere pubbliche peraltro sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nella ricetta per la ripresa, per il superamento della crisi economica. Le opere pubbliche possono sostenere la domanda, dare lavoro immediato e al tempo stesso compensare e ridurre quel deficit infrastrutturale di cui il Paese soffre. ANAS è in prima linea in questo e mette a servizio questa ritrovata efficienza, questa capacità realizzativa. Noi abbiamo oltre 150 cantieri di lavori in corso attualmente per oltre 10 miliardi di euro, moltissimi dei progetti approvati recentemente dal governo nel piano straordinario di infrastrutture saranno realizzati da ANAS. Stiamo realizzando opere anche di carattere ordinario, anche piccole opere o piccolissime opere, ma di grande importanza a livello locale, quindi un impegno a 360 gradi. Grazie Presidente, la saluto a lei, auguro buon lavoro. Grazie, buonasera. Le 17:45 in punto, adesso ci occupiamo di assicurazioni. Relazione annuale dell'ANIA questa mattina, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, che associa circa 200 imprese che rappresentano oltre il 90% del mercato assicurativo in termini di premi. Partiamo subito dall'RC Auto, che è un po' il nervo più sensibile. La raccolta premi è destinata a chiudere in calo anche il 2009 dopo il meno 3,3% del 2008 e la flessione di un punto percentuale circa del 2007. Secondo quanto emerge dalla relazione annuale dell'ANIA, il comparto RC Auto quest'anno dovrebbe chiudere con una flessione tra l'1 e il 2%. La dinamica dei prezzi dell'RC Auto l'ha spiegata al microfono di Cristina Fei, il presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai. Negli ultimi 5 anni la spesa assicurativa degli italiani per l'RC Auto è diminuita progressivamente, solo l'anno scorso è diminuita oltre il 3%, siamo a una diminuzione nei 5 anni che supera l'8% in termini nominali e quasi il 16% in termini reali. Credo che siamo in questo momento in presenza di qualche segnale di preoccupazione, perché il conto economico dell'RC Auto, dell'impresa, che fino al 2007 era stato positivo, nel 2008 è andato in perdita, sia pur lieve. abbiamo una spesa di 101 euro tra sinistri e costi ogni 100 euro incassati. Questo è un segnale di preoccupazione per le imprese, ma preoccupazione anche per i consumatori, perché quando le imprese sono in perdita c'è il rischio che ci sia una ripresa dei prezzi dell'assicurazione auto. È aumentata la frequenza dei sinistri, non è diminuito il costo medio, neppure in presenza del risarcimento diretto, che è stato un fatto positivo perché ha aumentato fortemente la qualità del servizio. Soprattutto i tempi di liquidazione si sono fortemente accorciati e questo ovviamente è un interesse del consumatore. Però i costi medi di liquidazione non sono diminuiti e in Italia restano i più alti di tutta Europa. La frequenza dei sinistri in Italia è il 40% più elevata della Germania e il doppio della Francia. Non è piaciuta per niente la relazione del presidente dell'ANIA Cerchiai ai consumatori. Infatti, nello stesso giorno di presentazione della redazione, il Codacons ha lanciato un duro attacco all'ANIA e alle imprese assicuratrici che continuano, dice il Codacons, ad aumentare le tariffe dell'RC Auto. Contestiamo con fermezza i dati diffusi oggi dall'ANIA, afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi. I prezzi delle polizze non accennano a calare, anzi crescono al ritmo del 5% annuo e solo negli ultimi 10 anni le tariffe RC Auto sono aumentate del 145%. Dobbiamo anche dire che dal 1 luglio e quindi da ieri sono scattati nuovi aumenti tariffari annunciati qualche settimana fa dall'ANIA. La ragione, dice l'ANIA, l'aumento dei costi di gestione dei sinistri, in particolare il rialzo dei sinistri con danni alle persone arrivati al 67% del totale. Complessivamente il settore, la raccolta premi in tutto appunto il complesso del settore assicurativo italiano salirà comunque nel 2009 di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2008, che si era chiuso invece con un calo superiore al 7%. Questo è quanto si legge nella relazione annuale in cui emerge il ruolo trainante del ramo vita. Nel complesso la raccolta premi del lavoro diretto italiano dovrebbe tornare a crescere nel 2009 rispetto all'anno passato e il volume appunto della raccolta dei premi dovrebbe raggiungere i 97 miliardi di euro circa, con questo incremento superiore ai 5 punti percentuali. Sentiamo proprio un bilancio dell'andamento del settore nel 2008 in questo passaggio dell'intervento del presidente Cerchiai. L'introduzione del risarcimento diretto ha prodotto risultati positivi in termini di qualità del servizio di liquidazione. Questa importante riforma, che a suo tempo ha visto protagonista proprio il ministro Scajola, ha migliorato i tempi di liquidazione e attenuato il contenzioso con i danneggiati. Alla diminuzione dei prezzi e al miglioramento della qualità del servizio, però, non è corrisposta una riduzione dei costi dei sinistri e dei costi di gestione per le imprese. Tale evoluzione si è riflessa negativamente sull'andamento economico del settore, che dallo scorso anno non è più in equilibrio. Nel 2008, su 100 euro di premi incassati dalle imprese, ne sono stati spesi 101 per sinistri e costi gestionali. Di questi 101, 83 è per sinistri. Il conto economico dell'RC Auto, per la prima volta dal 2001, ha dunque registrato per il complesso dell'industria assicurativa italiana un risultato in perdita, seppur lieve. Non poteva mancare un riferimento al periodo di crisi. Nel complesso l'industria assicurativa italiana ha reagito alla crisi meglio di quella di altri paesi. Questo è quanto ha dichiarato il presidente Cerchiai. Sentiamolo ancora al microfono di Cristina Fei. Bilancio dal punto di vista economico è un bilancio che risente inevitabilmente dal punto di vista finanziario della crisi, ma che conferma la grande solidità dell'industria assicurativa italiana, che ha saputo superarla senza l'aiuto di nessuno. Anche il sistema bancario italiano ha dimostrato di essere molto più solido di altri paesi. L'assicurazione è uno strumento che fa parte anche delle valutazioni che si devono fare da parte delle banche per dare credito, perché un'impresa ben assicurata è un'impresa meno esposta al rischio. Facciamo delle richieste che vanno fondamentalmente sul convincimento dell'urgenza delle riforme, le grandi riforme, quelle che interessano tutti gli italiani e nelle quali poi l'industria assicurativa può avere il ruolo che ha negli altri paesi. Le pensioni, la sanità, la previdenza, la non autosufficienza, che è un problema sempre più grave, sempre più acuto, visto l'invecchiamento della popolazione e visto il crescere della longevità di tutti noi. Sono proposte tutte finalizzate a invitare il governo a non perdere tempo nell'interesse degli italiani. Il tema delle assicurazioni, in particolare quello dell'RC Auto, ovviamente scatena sempre, come è giusto che sia, un grande dibattito anche attraverso i vostri sms. 349-238-66, questo è il numero a cui potete inviarli. Allora ve ne leggo solo alcuni. Quando la fine dei furti assicurativi RC Auto, non posso più pagare questi salassi. Le assicurazioni piangono? Ci credo, la gente è stufa e non fa altro che rivolgersi a internet. Io per esempio ho dimezzato i costi. E ancora, la mia polizza RC Auto di uno scooter è aumentata di 20 euro, pari al 13%, senza incidenti da 3 anni a questa parte. E poi ancora, sarebbe necessario controllare di più i costi di riparazione dei danni da incidenti di macchina. Per esperienza personale ho potuto constatare che vengono effettuati tanti imbrogli anche da parte dei periti dell'assicurazione. Questo ci scrive un ascoltatore. Altro tema toccato dal presidente Cerchiai e che ha animato il dibattito con i consumatori, perché? Perché l'ANIA manifesta apprezzamento per la reintroduzione della pluriennalità dei contratti assicurativi avvenuta ieri con il DDL Sviluppo e chiede di mettere mano alle disposizioni in materia di clausole bonus malus nell'RC Auto e al divieto di esclusiva nei rapporti di agenzia. Sentiamolo ancora il presidente Cerchiai. La situazione complessiva è stata aggravata e in parte sconvolta da interventi legislativi assunti con una certa superficialità tecnica, che sono quelli riferiti alle nuove norme sul bonus malus. Quando lei va a stabilire che in presenza di concorso di colpa non scatta il malus, siccome la presunzione costante è del concorso di colpa al 50%, impedisce in molti casi di verificarsi gli incidenti il malus tariffario. Questo cosa determina? Determina una diminuzione di prezzo per chi ha guidato non virtuosamente e inevitabilmente nel tempo un aumento dei prezzi per tutti gli automobilisti virtuosi, perché l'equilibrio tariffario lo deve ritrovare. Il sistema bonus malus sta perdendo di significato, potrebbe essere un sistema che scompare se non viene rivista questa norma. Le imprese, quello che possono fare alcune cose, raccolgo la sollecitazione del presidente dell'ISVAP di migliorare ancora l'efficienza del sistema di liquidazione dei sinistri. La lotta alle frodi, sono anni che noi chiediamo l'istituzione dell'agenzia antifrode, di interventi preventivi, perché bisogna evitare che gli incidenti capitino, soprattutto quelli dolosi, attraverso l'incrocio di banche dati. Ancora il presidente Cerchiai, che cosa ha dichiarato poco dopo? Non mi risulta la previsione di un tavolo per attuare modifiche alle liberalizzazioni varate dall'ex ministro dello sviluppo economico Bersani, in particolare appunto proprio sulle nuove norme relative al bonus malus, ma non nascondo, ha detto Cerchiai, che mi farebbe piacere se ci fosse. Questo è quanto ha dichiarato poi al termine dell'assemblea annuale. All'assemblea era presente anche il ministro, attuale ministro per lo sviluppo Claudio Scajola. Il nostro paese ha bisogno di molte riforme, ha bisogno anche di un mercato libero, non di lenzuolate, delle cose concrete nell'interesse dei consumatori. Questo ha detto Scajola commentando la richiesta del presidente Cerchiai di promuovere proprio ancora riforme sul mercato. Allora sentiamolo Scajola al microfono di Cristina Fei. Questo paese ha bisogno di molte riforme, ha bisogno anche di un mercato più libero, non di lenzuolate, ma di cose concrete nell'interesse dei consumatori e per mantenere solido il sistema di impresa. Abbiamo incominciato con una riforma importante, quella del federalismo, che dovrà riuscire nel suo obiettivo principale. Avvicinando la spesa, la fonte di spesa al territorio, ci sarà più controllo e ci dovrà essere quindi più risparmio di spesa pubblica. Ma poi ci sono altre riforme sulle quali c'è bisogno di muoversi. Mi auguro proprio che il governo riesca a portare avanti tutto il suo programma intenso di modernizzazione del paese, penso alla pubblica amministrazione, penso al peso della burocrazia, e che quindi ci si interessi un po' di meno di gossip e un po' più di cose concrete. Questo è stato un altro punto che ha fatto molto arrabbiare e inquietare i consumatori. Le liberalizzazioni vere o fasulle introdotte negli ultimi anni nel settore RC auto hanno contribuito a rendere più efficiente e trasparente il mercato assicurativo italiano. L'ANIA non può pensare di smantellarle, questo è quanto ha dichiarato l'Unione Nazionale Consumatori, esprimendo proprio il dissenso riguardo alla relazione annuale del presidente dell'ANIA Fabio Cerchiai. E poi ancora intervenuta sempre su questo punto l'ISVAP, che propone una tregua nella richiesta di correttivi al quadro di riferimento normativo delle assicurazioni. Lo ha detto proprio il presidente dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, Giancarlo Giannini, dopo la richiesta di Cerchiai di riprendere in considerazione una modifica delle regole sugli agenti plurimandatari. Sugli aspetti di metodo con cui le liberalizzazioni sono perseguite, l'autorità ha più volte ribadito un orientamento favorevole al confronto più che all'imposizione dall'alto. Questo è quanto ha detto Giannini a margine proprio dell'assemblea dell'ANIA. Ancora parliamo del presidente dell'ISVAP Giannini. Sale dal 5 al 10% la soglia partecipativa minima soggetta agli obblighi autorizzativi, nonché dell'assoggettamento ad autorizzazione delle acquisizioni, che consentono poi l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione indipendentemente dalla quota di partecipazione. Questo è quanto ha detto Giannini, ma sentiamo il suo intervento più preciso. La soglia partecipativa minima soggetta all'obbligo assicurativo passa dall'attuale 5% al 10%, e anche occorre l'autorizzazione quando la partecipazione, che fosse superiore alla soglia del 5 ma non arrivasse al 10, determinasse una influenza notevole sulla gestione. E soprattutto è importante anche l'informazione prevista per tutte le soglie superiori al 5, perché anche l'autorità possa valutare se non si realizzi in questi casi una influenza determinante. Si riducono i tempi di istruttoria su diverse domande di iscrizione del registro, si semplificano alcuni adempimenti e si aumenta la flessibilità su alcune scelte operative. Insomma, si è ritenuto, rispettando i canoni fondamentali che derivano dal codice delle assicurazioni e sanzionati dalla giurisdizione positiva del TAR e del Consiglio di Stato, di poter agevolare il più possibile e rendere più snello il lavoro degli intermediari e conseguentemente anche delle imprese. Prima di dare la linea al GR volevo leggervi un altro degli sms arrivati. Un ascoltatore ci scrive: in Florida ho pagato per l'RC casco dell'auto, una Cadillac, $330 per un anno, in Italia invece per una macchina ovviamente molto più piccola €610, proprio una banda di incompetenti privilegiati. Questo ci scrive l'ascoltatore. Le 18:09, ben ritrovati con Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Nella prima parte del programma abbiamo parlato dei conti pubblici e poi abbiamo parlato delle assicurazioni, e su questo vi siete scatenati sui messaggi, in alcuni casi davvero giustamente raccontate delle cose anche abbastanza raccapriccianti per quanto riguarda le assicurazioni. Prima di andare a vedere gli aggiornamenti sulle notizie in breve, lo sguardo sui mercati, una seduta da dimenticare per l'Europa. Parigi ha ceduto il 3,13%, Francoforte il 3,81%, Londra il 2,45%, a Milano il FTSE Italia All Share ha ceduto il 2,41%, il FTSE MIB il 2,65%. Vanno giù i listini statunitensi: il Dow Jones cede il 2,08%, il Nasdaq il 2,40%, lo Standard & Poor's il 2,31%. Adesso le notizie in breve. Un aggiornamento sul petrolio che va ancora giù, $66,7 poco fa, aveva aperto in calo del 2,3% a oltre $67,7 al barile. Manca il rinnovo del contratto di categoria, il governo non rispetta gli impegni assunti per mettere mano alle regole del settore. Allora i sindacati dei gestori, parliamo dei benzinai, proclamano uno sciopero di 2 giorni che terrà i distributori chiusi per le intere giornate dell'8 e del 9 luglio. Andiamo in Europa, la politica monetaria, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi di interesse invariati come ampiamente atteso dai mercati. Questo è quanto ha deciso il consiglio direttivo dell'Eurotower, che ha mantenuto il tasso di riferimento principale all'1%. Nella conferenza stampa che è seguita la riunione del consiglio direttivo, Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale, ha detto che l'attuale livello dei tassi è quello appropriato e quindi ha allontanato l'ipotesi di un ulteriore taglio a breve. Trichet ha ancora detto: l'attività economica quest'anno rimarrà debole, la ripresa è attesa per la metà del 2010. L'inflazione, ha detto Trichet, resterà temporaneamente in terreno negativo nei prossimi mesi. L'obiettivo resta tornare vicino al 2% nel medio termine. Ma sentiamo un estratto della conferenza stampa. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato considerando le informazioni disponibili. Dati recenti indicano che l'attività economica quest'anno rimarrà debole, ma dovrebbe calare in modo meno pronunciato rispetto al primo trimestre del 2009. Questa situazione riflette alcuni effetti negativi, tra cui un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro, che si manifesteranno nei prossimi mesi. Guardando più avanti all'anno prossimo, dopo una fase di stabilizzazione, ci aspettiamo una ripresa graduale per metà del 2010. I significativi piani di stimolo adottati in tutte le principali economie dovrebbero sostenere una crescita globale anche nella zona dell'euro. Per quanto riguarda il fronte dei prezzi, il calo dell'inflazione in territorio negativo a giugno è stato in linea con le attese. Ci attendiamo che l'inflazione resti in territorio negativo nei prossimi mesi prima di tornare su livelli positivi. Before turning positive again. La Banca Centrale Europea darà il via il 6 luglio al suo programma di acquisto di 60 miliardi di euro di cover bond, le obbligazioni garantite. In una nota emessa dopo le decisioni del Consiglio Direttivo di oggi, l'Eurotower precisa che acquisterà i titoli nell'ambito del programma teso a liberare i bilanci delle banche di Eurolandia. Veniamo in Italia, conti pubblici, il rapporto tra deficit e PIL nel primo trimestre si è attestato al 9,3%, lo riferisce l'Istat, ricordando che nel primo trimestre 2008 era stato del 5,7%. E poi ancora, sempre dati Istat, il rapporto tra deficit e PIL al 9,3% risulta essere il dato più negativo almeno dal 1999, anno in cui è cominciata la serie statistica proprio dell'Istat. Nel primo trimestre 2009, dice l'Istat, le entrate totali sono diminuite rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente del 2,8%, con un'incidenza sul prodotto interno lordo del 39,9%. E ancora, sempre ovviamente riferito allo stesso periodo, quindi i primi tre mesi dell'anno, le uscite totali sono aumentate in termini tendenziali del 4,6%, il loro valore in rapporto al PIL è stato pari al 49,2%. Ancora, nel primo trimestre il saldo primario, quindi l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche al netto degli interessi passivi, è risultato negativo e pari a circa 17 miliardi, era poco più di 3 miliardi nel corrispondente trimestre del 2008, con un'incidenza negativa sul PIL del 4,6%. Le 18:15 minuti e 36 secondi, adesso parliamo di occupazione. In realtà parliamo della crisi del mercato del lavoro. Partiamo dall'Italia per raccontarvi un caso particolare che però purtroppo sappiamo si è verificato anche in altre regioni. Andiamo in Piemonte, perché qui i tre sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, hanno denunciato che da mesi circa 20.000 lavoratori, per cui è stata prevista la cassa integrazione in deroga con la legge 2 del 2009, non hanno ricevuto i soldi che gli spettano. Il servizio è di Paolo Piacenza. Il problema investe il Piemonte, dove la crisi ha colpito duro. Basti dire che a maggio si sono registrati 22.000 lavoratori in cassa integrazione straordinaria, 33.000 licenziati iscritti nelle liste di mobilità e 17 milioni di ore di CIG ordinarie autorizzate. La legge numero 2 del 2009, come si sa, ha esteso la tutela degli ammortizzatori sociali a settori e tipologie contrattuali non coperte, come gli apprendisti o i contratti di somministrazione, come pure a tutti i lavoratori per cui si erano raggiunti i limiti massimi di cassa integrazione. Per i mesi di gennaio e febbraio in Piemonte la copertura è stata garantita dall'erogazione di 10 milioni di euro. CGIL, CISL e UIL Subalpini denunciano però che quei fondi hanno cominciato ad essere distribuiti dall'INPS solo ora e che quindi solo una piccola parte dei lavoratori interessati li ha potuti ricevere. Ma il peggio, dice il segretario regionale della CISL, Marcello Maggio, riguarda i mesi da marzo in poi. Il problema è da marzo in avanti, perché esaurite le risorse, che ripeto si stanno esaurendo adesso con il pagamento relativo per i primi due mesi, che cosa succede per tutti i lavoratori che o continuano a essere in cassa integrazione, quindi in sospensione di lavoro, o nel frattempo si sono aggiunti da marzo in avanti, per cui non c'è più copertura economica? Allora, sulla base di questo era stato fatto un accordo tra lo Stato e la Regione Piemonte, così come lo Stato l'ha fatto con tutte le altre regioni, che stanziava altri 50 milioni per la Regione Piemonte per pagare, appunto, per andare avanti nel pagamento degli ammortizzatori. Il problema è che il pagamento deve essere soggetto a una procedura prevista da una convenzione tra Regione e INPS, perché l'ente erogatore è l'INPS, e la convenzione ad oggi in Piemonte non è ancora stata sottoscritta, pare che venga firmata tra domani e dopodomani, insomma in questi giorni. Cosa più grave è che il governo, che ha stanziato questi 50 milioni in questo accordo tra il Ministero del Welfare e la Regione Piemonte, però questo decreto, come tutti i decreti che prevedono spesa, deve essere controfirmato dal Ministero da Tremonti, deve essere confermato dal Ministero del Tesoro, e a tutt'oggi non c'è ancora questa controfirma, quindi teoricamente c'è lo stanziamento delle risorse, ma praticamente non c'è ancora la disponibilità. Gli effetti, continua Maggio, riguardano al momento circa 20.000 lavoratori interessati in Piemonte dagli ammortizzatori in deroga. Adesso questi poveracci che erano sospesi in gennaio e febbraio stanno prendendo, non ancora tutti, però l'INPS sta con fatica smaltendo questi primi due mesi. E ovviamente a ritardo si accumula ritardo, mentre uno degli impegni che si erano anche assunti, su cui non eravamo anche d'accordo, era che bisognava rapidamente dare copertura e anche celerità nei pagamenti, c'è il rischio che i lavoratori che vengono sospesi ricevono gli ammortizzatori con mesi dopo. Inoltre, dice ancora Maggio, la procedura è complessa e l'INPS del Piemonte appare in difficoltà nel gestire l'erogazione delle risorse, al punto che si ipotizza l'assunzione di lavoratori a tempo determinato per smaltire le pratiche. Ora i sindacati chiedono a Regione e INPS di risolvere celermente l'intoppo burocratico e firmare la convenzione, chiedono la convocazione del tavolo regionale sulla crisi per gestire l'emergenza e invitano l'esecutivo a fare presto. Governo, chiediamo rapidamente di la controfirma del decreto, in modo che ci sia la reale disponibilità dei soldi presso l'ente erogatore, presso l'INPS, e quindi, sbloccata la procedura, si cominci a pagare. Abbiamo parlato della cassa integrazione in deroga, altra notizia relativa all'indennità di disoccupazione: sono solo 1.800 le domande presentate da lavoratori precari per ottenere questo tipo di indennità introdotta dal governo lo scorso gennaio. Si tratta di una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nel 2008, un aiuto che potenzialmente riguarda una platea di circa 75.000 persone. Per i rapporti finiti prima del 30 maggio la scadenza era quella dello scorso 30 giugno, che ha perso dopo questa data a altri 30 giorni di tempo. La ragione delle poche richieste dipende probabilmente proprio dalla scarsa informazione fornita a una tipologia di lavoratori non sempre facilmente raggiungibili. Vi abbiamo raccontato uno spaccato di quello che succede nel mercato del lavoro italiano, una crisi di questo mercato. Abbiamo già detto più volte nel corso di questa puntata che oggi è uscito anche il dato relativo alla disoccupazione in Europa, 9,5% il tasso di disoccupazione, un dato uguale a quello uscito oggi negli Stati Uniti, che ha depresso completamente i listini, un dato che è migliore rispetto alle attese degli analisti. Il punto è che sono stati bruciati più posti di lavoro rispetto a quelli che si era ipotizzati, e quindi una nuova preoccupazione, perché questo aveva subito un rallentamento nel mese di aprile, invece qui si ricomincia a correre. Siamo in collegamento con New York, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Mario Platero, che saluto. Buonasera Mario. Buonasera, eccoci qua. Dunque, tu lo hai già accennato, la notizia non è bella, perché dopo un barlume di speranza che c'è stato il mese scorso, quando la caduta dei posti di lavoro è stata semplicemente... mi sentite? Sì, sì, Mario, ti sentiamo, anche se la linea è leggermente disturbata. Comunque ti sentiamo abbastanza bene. La linea, sì. Ecco, dicevo, era calato da 500-600 mila, era calato a circa 300 mila posti di lavoro persi per il mese di maggio. Ecco, in giugno ne abbiamo persi oltre 400 mila. È stato un numero che ha sorpreso, 467 mila posti di lavoro perduti, quasi 500 mila. E dunque questo, guardando in avanti, non rassicura. Perché? Perché significa che l'economia alla fine soffrirà dalla perdita di queste persone che non avranno più un reddito. Sono 400.000 persone in più che probabilmente hanno dei mutui che devono pagare e che non riusciranno più a pagare. Significa che il settore immobiliare, il settore automobilistico che deve ricevere i pagamenti per le rate, qualunque pagamento laterale, ne soffrirà. E non mi sto riferendo soltanto a questi 467.000, ma al fatto che anche se dovessimo andare ad un ritmo inferiore, anche se dovessimo stabilizzarci su una media di 300.000 posti di lavoro perduti, diciamo da qui a dicembre o da qui a febbraio, stiamo comunque parlando di oltre 2 milioni e mezzo di posti di lavoro, nuovi posti di lavoro perduti per l'economia americana. Stiamo parlando di un tasso di disoccupazione che probabilmente arriverà a due cifre, al 10%, qualcuno dice addirittura all'11%. Tutto questo in un periodo, diciamo l'inizio del 2010, quando invece ci si augurava che la ripresa potesse davvero essere già nel pieno del suo vigore. E emerge un quadro un po' inquietante, e cioè che è probabile anche che la ripresa cominci ad esserci per allora, ma sarà una ripresa che produrrà poca occupazione. Certo. Questo preoccupa la borsa. Infatti l'abbiamo visto oggi, è stata veramente una giornata pesante in Europa, e anche in questo momento i listini statunitensi perdono poco più di 2 punti percentuali. Mario, fa molta impressione considerare che a maggio dello scorso anno il tasso di disoccupazione era al 5%. Certo, e questo dimostra anche la profondità di questa crisi, la rapidità con cui questa crisi si è manifestata, la prudenza della borsa, gli operatori di borsa. Dopo il rally che abbiamo avuto da, diciamo, gennaio-febbraio fino adesso, un rally straordinario, la borsa ha fatto il 30%, in alcuni casi il 40%, ecco, qualcuno si domandava: ma è una cosa sicura? Ci sarà una correzione? Non ci sarà una correzione? Ecco, oggi cominciamo a vedere, abbiamo avuto qualche piccolo tentativo di correzione la settimana scorsa, abbiamo visto oggi questo, appunto, stiamo viaggiando intorno al 2%, domani le borse saranno chiuse per la festa del 4 di luglio, quindi sarà una festa anticipata, il 4 di luglio cade il sabato, quindi ci sarà un minimo di cuscinetto, e dopodiché si vedrà. E la domanda di fondo, devo dire, che così angustia un po' tutti gli operatori e gli investitori, è proprio quella: a questo punto siamo in una fase di ascesa di una borsa che comunque riflette la ripresa dell'anno prossimo e quindi continuerà a salire gradualmente, oppure siamo in una situazione anomala in cui questa ripresa sarà una ripresa stanca, una ripresa senza troppo vigore, soprattutto sul fronte occupazione, e dunque indurrà un pochettino più di prudenza. Ecco, se prevale questo secondo scenario, l'idea è che da qui a quando avremo poi la vera ripresa, quella più forte, sì, speriamo a metà dell'anno prossimo, potrebbe esserci anche un'altra correzione. Mario, viene un po' da pensare, anche se ovviamente è più una paura forse che un fatto reale, che questo nuovo aumento dei posti di lavoro tagliati dimostrino un po' il fallimento di tutto questo enorme pacchetto di stimoli varato dall'amministrazione Obama. Tra l'altro c'è una dichiarazione del presidente che si dice profondamente preoccupato, e non potrebbe essere altrimenti, per la perdita dei posti di lavoro. E poi ha detto l'amministrazione è riuscita a fornire una maggiore stabilità al mercato immobiliare e finanziario, ma lo stesso Obama ha ammesso che sarà necessario lavorare duramente poi per favorire la creazione concreta di posti di lavoro. Obama è preoccupatissimo non solo sul piano economico ma su quello politico, perché l'anno prossimo, il 2010, a novembre, ci saranno le elezioni di metà mandato. che saranno elezioni molto importanti, saranno il vero banco di prova del pacchetto Obama, e per questo Obama tra l'altro cerca di far passare la riforma sanitaria subito, la riforma sui programmi ambientali ed energetici, tutto entro dicembre, perché se si dovesse trascinare, diciamo, a febbraio, con un quadro appunto in cui l'occupazione sarà molto molto debole, allora la sua forza politica sarà molto diminuita, rischierà di trovarsi a novembre con probabilmente delle perdite forte in congresso. Ricordiamolo, nel 94, quando ci fu una situazione simile durante l'amministrazione Clinton, l'amministrazione Clinton spinse con straordinaria energia un pacchetto per la riforma sanitaria, stiamo parlando di 15 anni fa, ebbene fu una disfatta, perché proprio attorno alla riforma sanitaria, nelle elezioni di metà mandato, Clinton fu eletto nel 92, le elezioni furono nel 94, i democratici alla fine persero la maggioranza in congresso, e dunque Obama è ben conto del rischio che sta correndo, cerca di accelerare sul fronte dei suoi progetti importanti, riforma sanitaria e riforma energetica, ma è ben conscio che se per l'anno prossimo le cose non saranno cambiate avrà difficoltà. Solo una cosa vorrei aggiungere, e cioè il fatto che c'è un tasso di risparmio molto forte negli americani, cioè è aumentato molto più di quanto non sia stata la media, sicuramente molto più di quanto fosse la media degli ultimi 10 anni, e proprio perché c'è prudenza. Quindi i soldi del pacchetto di stimoli che Obama ha dato, che si sono tradotti magari in alcuni posti di lavoro, in alcuni aumenti di stipendio, e il rischio che invece di essere andati al consumo sono finiti poi al risparmio. Grazie a Mario Platero in collegamento con noi da New York. Il tempo a nostra disposizione è esaurito. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Uregi. L'appuntamento è per domani.